Cantine di Franciacorta. Bentrovati, oggi ci fermiamo ad Adro, nel luogo dove sorgeva una vecchia fornace, e ora troviamo l'azienda Contadi Castaldi. Quasi 1 milione di bottiglie all'anno per uno dei più importanti produttori, soprattutto di Sauternes. L'80% delle bottiglie rimane in Italia, ma ben il 20% parte per l'estero. Gianluca Uccelli, enologo di Contadi Castaldi. È molto importante trovare anche nuovi mercati, soprattutto l'estero, e quindi riuscire a ragionare in relazione a quello che sono le culture diverse dalle nostre. Un mercato molto interessante per noi è quello giapponese, interessante e affascinante perché è forse uno dei più lontani rispetto al nostro, soprattutto in termini di alimentazione. E stiamo riscoprendo in Franciacorta soprattutto alcune nostre tipologie in modo particolare interessanti per quel tipo di mercato e che loro iniziano ad apprezzare in modo abbastanza radicale. Alla prossima tappa, sempre in Franciacorta. Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.